soffri, ma anche se non soffri, giuro ce la farò. Negli occhi tuoi spero che tu menti, ma anche se non menti, giuro ce la farò. Maria, tu parli, però non ti accorgi di quanto mi manchi. Di già mi senti, Maria, se io fossi la marea, riuscirei a portarti via dalla spiaggia del tuo orgoglio, tra pericoli e montagne, attraverso dubbi e lacrime, ma non puoi mandarmi via da te, Maria. Ce la farò nel cuore mio, spero che non dormi, ma anche se tu dormi, giuro ce la farò. Maria, che sogni nel buio, che pensi, Maria, non amare mai più nessuno così. Se io fossi ora un'idea, seguiresti la mia scia, finché non precipitiamo. Non mi chiedi come stai, se ho mangiato poco quasi mai. Tu non puoi buttarmi via così, Maria. Con chi stai? Il mio cuore ha 15 anni ed è un cuore vecchio ormai, ha versato troppo.